Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Le 8, 18 minuti e 30 secondi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, è mercoledì 7 ottobre, questa è la terza parte di 24 mattino, al microfono sempre Simone Spezia. Più avanti alle 8.35 entreremo sul tema mascherine sì, mascherine no, dittatura sanitaria e tutte le discussioni che stanno sorgendo in questo momento, sentendo ovviamente due opinioni diverse. Se volete intervenire c'è l'800 24 00 24 per dire la vostra, insieme al 349 238 6666 che è il numero per gli sms, i messaggi su WhatsApp, anche audio per le vostre voci. Poi c'è anche la mail, 24mattino@radio24.it. Siamo in diretta a Facebook, ci trovate ovunque. Caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci qua, eccoci. Buongiorno, meno male che di mascherine parlate dopo, così ce le evitiamo noi. Adesso noi. Anche perché la questione delle mascherine è così semplice, cioè la mascherina si porta per evitare di sputare agli altri i nostri virus, punto. Quindi è una chiunque può incontrare un'altra persona e deve portare la mascherina come rispetto all'altra persona, non è per difendersi ma per evitare di contagiare altri. Non vedo. Siamo pronti. Dimmi. Con l'agenzia, duro monito di Paolo Mieli, il capo dello Stato, perché c'è già qualcuno che scrive buongiorno presidente quando tu entri in onda, perché ormai sì, sei allora via. Però io ti dico che sono indignato. Ieri quello che è successo alla Camera, le assenze, il giorno decisivo, sono mancate una novantina di deputati e sì, 40-45 erano assenti giustificati dal Covid, perché poi basta che alcuni sono Covid veri, ben inteso, Beatrice Lorenzin che è deputata del PD, ma altri, se tu vuoi rimanere a casa dici guarda ho incontrato uno col Covid, te ne rimani a casa, e adesso si trova che li giustificano come donna partoriente, in missione, per cui oggi si rivota trovando la giustificazione a tutti quelli che si danno contagiati dal Covid. Un po' di serietà, anche perché diciamo su 90, ammettiamo anche che 40, ma 50 siano contagiati dal Covid, ma gli altri 30 io farei delle indagini. Ripeto, ieri era un giorno decisivo, hanno dovuto rinviare tutto, compreso la disposizione delle mascherine per questo, e siccome ieri era martedì, sì, il martedì è un giorno in cui le camere sono vuote perché c'è qualcuno che prolunga il fine settimana, il fine settimana. Sì. No, chiamiamolo la sosta nel collegio elettorale, ecco, sì, se vogliamo perché la sosta nel collegio elettorale. Comunque ieri Guarda Paolo, ti farei sentire, se sei d'accordo, ti farei sentire proprio il momento nel quale manca il numero legale, la voce di Ettore Rosato che in quel momento presiede la Camera dei Deputati da vicepresidente, che poi con l'esultanza da parte dell'opposizione. I colleghi hanno votato tutti, dichiaro chiusa la votazione. No, un attimo. Manca il numero legale. Colleghi, non mi sembra mai una cosa da festeggiare la mancanza del numero legale. Così ieri alla Camera. Paolo, se sei d'accordo ti farei aspetta, sentire. Aspetta, fammi dire una cosa, vai, che questa prego. Esultanza dell'opposizione mi scandalizza davvero, perché un conto è che manchi il numero legale perché tu stai facendo una manovra parlamentare in quel senso, un conto è che se anche la metà, come abbiamo detto, sono contagiati dal Covid. E guarda che Ettore Rosato, tra l'altro, ho letto stamattina sui giornali che aveva fatto di tutto per buttarla in buona, era felice la giornata perché lui ha cominciato così, le parole di cui abbiamo sentito il seguito: colgo l'occasione per dare una lieta notizia, i colleghi Nicola Grimaldi e Marianna Iorio festeggiano la nascita della loro piccola Camilla, facciamo loro gli auguri da parte di tutti noi. Cioè lui pensava che fosse una giornata dove si festeggiava la nascita della piccola Camilla e tutti sarebbero stati lì festeggianti. Invece è finita nel modo che tu hai detto, sì. Chi vuole conoscerne tutti i dettagli deve leggere sul Sole un articolo perfetto di Marzio Bartoloni e Emanuela Perrone e anche un commento sconsolato di Lina Palmerini che vede gli errori della fase iniziale. Ma dicevi, ti volevo far sentire un'altra cosa. L'abbiamo già fatta sentire prima alle 6.30, però lo ripropongo perché ancora una volta non vorrei suscitare negli ascoltatori un sentimento di antipolitica eccessivo, però qua abbiamo una parlamentare di Italia Viva che si chiama Lisa Noia, affetta da atrofia muscolare spinale, che tira, mi consentirai un'espressione un po' volgare, una cazziata ai colleghi. Sentiamola un attimo. Perdonatemi, però io trovo che sia mortificante avere la presidenza che quotidianamente deve invitare in quest'aula al rispetto delle regole di base, deve invitare a tenere le mascherine correttamente, deve invitare a tenere le distanze. Scusatemi, io so che tenere le mascherine è faticoso. Io faccio molta fatica a tenere la mascherina perché ho delle difficoltà respiratorie serie. Allora, se la tengo io per 8 ore, non c'è nessuno in quest'aula che non abbia la possibilità di tenerla. Che dici, Paolo? Dico che mi ha commosso anche perché aveva le parole che le si strozzavano in gola. E ha perfettamente ragione, la mascherina è un elemento di civiltà, può darsi che non sia decisiva, non voglio entrare in questo merito, ma è un passaggio e questo dibattito pro o contro la mascherina a me mi scandalizza, anche perché capirai che sacrificio tenere la mascherina quando c'è gente. Ci sono intere civiltà che portano la mascherina da mattina alla sera e sono asiatiche, e diventiamo un po' asiatici anche noi. Che altro hai visto, Paolo, oggi? Che altro hai notato? Beh, dunque, allora, ieri sono passati, stati annunciati il cambio dei decreti, finalmente, un anno e 2 mesi dopo, i decreti Salvini, i giornali si scontrano, perché ovviamente i giornali di destra dicono ecco, via libera ai migranti, Repubblica pubblica un interessante lavoro, dove dice che in realtà i migranti già adesso sono molto diminuiti e riporta le cifre che nel 2015 erano 154.000, l'anno dopo 180.000 e quest'anno sono stati 24.332. E quindi è un lavoro molto ottimistico, però pubblica anche che l'anno di Salvini erano stati 11.000 e questo noi lo sapevamo, che prima di quegli interventi di Minniti e di Salvini i migranti erano 10 volte di più. Non c'è niente da festeggiare, anche se adesso già sulla modifica dei decreti Salvini molti giornali storcono la bocca perché dicono che non contengono tutte le norme che loro si sarebbero aspettati, lo fa Elly Schlein che è un po' la Ocasio-Cortez italiana, la deputata, no, adesso è vicepresidente della regione Emilia-Romagna che rappresenta la sinistra più giovane, più antagonista, anche lei li critica, in genere la critica è che se non hanno poi il diritto di cittadinanza, lo ius culturae, chiamalo come vuoi, questi decreti non servono a poco. Cioè, il cambio serve a poco, no? I decreti servono, il cambio serve a poco. E poi l'altra cosa che mi ha colpito è che si è acceso un interessante dibattito sulla Regione Lazio, nel senso che Zingaretti ha annunciato che vuole lasciare la guida della regione. I giornali di destra, Libero, hanno abboccato, hanno detto è stanco, ecco la prova che è uno sfaticato, affaticato, insomma. In realtà questo è l'inizio di una grande manovra politica, noi ce ne siamo già occupati, per spartire con il Movimento 5 Stelle, scambiare la presidenza della regione Lazio e il sindaco di Roma. Il sindaco di Roma dovrebbe andare al PD e la presidenza della regione Lazio ha un membro di 5 Stelle, ti ricordi, si era parlato di Roberta Lombardi. Sì. Nel frattempo, proprio in margine a questo, Calenda, che è un altro, ci sono due cose, due persone che si vogliono candidare. Una è una deputata molto famosa, Monica Cirinnà, che si rivolge a Zingaretti dicendo che c'è un problema con le donne, che lui non vuole sentire parlare di donne. Dice, io, dice lei, mi darò da fare, mi batterò per il candidato quale sarà, però prendete in considerazione che possa essere una donna. Non è possibile che i 5 Stelle abbiano la Raggi e la Lombardi, la destra abbia la Cantina e la Meloni, effettivamente il centro-sinistra di donne non ne vuol sapere. E Calenda, ti dicevo, ha annunciato che entro 10 giorni, io ho fatto il conto perché adesso li tengo, lui darà la risposta se corre o no il 16 ottobre. Di qui al 16 ottobre lo terrò d'occhio come tengo d'occhio te per il 10 ottobre. Guarda, sabato c'è la caducazione. -3 alla caducazione, il momento nel quale il governo dovrebbe togliere la, a meno che le trattative non vadano in porto, la concessione ad autostrade. Sì. E noto che adesso la furbizia di coloro che danno gli ultimatum è di metterli il sabato e la domenica. Il termine della caducazione, perché il sabato e la domenica innanzitutto non ci siamo noi due, e poi sono giorni in cui la gente è distratta, non sta a pensare alla caducazione, e dico a Calenda che il suo ultimatum scade però di venerdì. Questo dimostra che è un ombre verticale, che è un uomo, è veramente un uomo male, che ha non male. Le tutte cade a posto, perché invece di poteva dire 11 giorni e buttarlo anche lui sul sabato che così non se ne sarebbe accorto nessuno. Mi scusi, ma Calenda non aveva detto 10 giorni? Ma è sabato, si va a pranzo a Fregene, se è una bella giornata, e pazienza, no? Più o meno così. Comunque intanto il Campidoglio è paralizzato perché il capo gabinetto della Raggi, Stefano Castiglione, si è beccato il contagio e quindi stanno facendo pulizia. La Raggi ieri sera ha fatto un primo tampone, come sai ce ne vogliono due, ed è risultata negativa. Poi ho notato anche un'altra cosa, che è stato battuto Antonio Ingroia. Ingroia, certo, ma come perdersi questa storia, caro Paolo, era finito candidato a sindaco di Campobello di Mazara. Ed è stato battuto con un margine non lieve, ha preso il 18% dei voti contro il rivale che ne ha preso il 67%. Ingroia, che è stato un magistrato, forse all'epoca, insomma 10 anni fa, è stato uno dei magistrati più famosi d'Italia, poi decise misteriosamente nel 2013 di darsi alla politica, sostenuto da tutti i giustizialisti, che fece un gruppo che si chiamava Rivoluzione Civile. Sì, certo. E fece un bagno terribile. Un anno dopo cambiò nome, Azione Civile, a Secondo Bagno. Adesso ha deciso di non mettere più la parola civile nella sua sigla, perché forse pensava portasse sfortuna. Terzo Bagno, ed ha avuto anche uno scorno, perché lui ha commentato: ha vinto la paura. Beh, insomma, ha vinto la paura, può darsi, però nello stesso tempo a Favignana ha vinto Francesco Forgione, un ex di Rifondazione che era presidente dell'antimafia, e quindi c'è da dire che, seguendo le teorie di Ingroia, a Campobello di Mazara c'è la paura. Sì. E a Favignana, a Favignana ha vinto il coraggio. Ha vinto il coraggio, è così, evidentemente. Paolo, ci risentiamo domani, subito dopo il GR. Grazie, buona giornata. Fatemi capire, ma l'articolo 32 della Costituzione italiana è stato abolito? No, perché nessuno può subire un trattamento sanitario obbligatorio contro la propria volontà. Quindi, finché non è stato abolito l'articolo 32 della Costituzione italiana, io non la metto. Personalmente sono molto contrario al fatto che facciate continuamente sentire la voce di quelli che abbracciano teorie complottiste, antiscientifiche, totalmente false. Non credo che sia un loro diritto democratico far sentire la loro voce. Credo che il diritto di cronaca in certi casi debba essere limitato. Non credo che in questi casi si tratti di censura, ma semplicemente di non voler diffondere, anche con il semplice diritto di cronaca, delle stupidaggini. Sanno tutti che la mascherina all'aperto da soli non serve, però l'obbligo della mascherina va messo perché altrimenti la gente non la mette dove serve metterlo. Si fa una regola purtroppo che penalizza anche noi stessi per ovviare all'inciviltà. Come sentite, posizioni diverse. C'è chi da una parte parla di dittatura sanitaria, chi definisce le mascherine museruole, bavagli, alcuni come l'ascoltatore che ha appena mandato un WhatsApp, una radio come voi dovrebbe battersi contro questa schiavitù, così la definisce. Dall'altra parte chi dice... Amici, è come la cintura di sicurezza, è come il casco in motorino, potrete non adattarvi per il momento, vi potrà dare fastidio, potrà essere una rottura di scatole, e però ve la dovete mettere. E laddove gli italiani non sono in grado di rispettare le regole, ci vuole una legge che lo imponga e delle multe. E in mezzo a tutto questo ci sono le varie sfumature, no? Io per quel che può valere, perché poi è un discorso che riguarda tutti, io per esempio sono un po' più a favore dello stato minimo che dello stato massimo, preferirei affidarmi al senso di responsabilità, ma mi rendo conto che talvolta qualche elemento di coercizione ci potrebbe volere. È di questo che parliamo, ne voglio parlare anche con voi ovviamente, sentire le vostre voci all'800 24 00 24 e parlarne con persone che ne sanno più di me. Sentiremo tra poco il professor Bassetti, che sulla questione delle mascherine all'aperto, come sapete, ha una posizione diversa da quella che stiamo sentendo in queste ore dall'esecutivo e dal governo, e ne parliamo con un uomo che incrocia le due professioni, quella di medico e quella di politico. Buongiorno a Paolo Siani, che è deputato del Partito Democratico. Eccoci Siani. Ed è anche un pediatra, quindi persona, è appunto un medico. Allora Siani, che cosa ci dici? Io partirei da questo, perché è un po' un incrocio tra le sue due competenze. Come la vede lei? Guardi, io vorrei che chi parla contro la mascherina incrociasse e parlasse con qualcuno che ha contratto il virus, perché parlare con un ammalato che ha contratto il virus e che trascorre 2 settimane, forse più, male, non solo quelli che sono male in ospedale, in rianimazione, ma quelli che sono anche a casa, stanno male, febbre, dolori, sofferenze atroci. Se uno parla con un ammalato e uno gli spiega, guarda che se tu vuoi proteggerti, devi indossare una mascherina quando incontri un'altra persona, credo che non ci siano discussioni di sorta, perché se voi mi dite per curarti prendi una pillola, io me la prendo la pillola. Qua si tratta di avere un concetto di prevenzione e di raziocinio. I medici, noi quando siamo in ospedale avevamo gli anni scorsi un bambino infettivo, tutti indossavano la mascherina, tutti, non solo i medici e gli infermieri, anche le mamme, nel caso mio che sono un pediatra, perché è una cosa logica, è una difesa per se stessi e per gli altri. In questo momento siamo in Italia, in un momento in cui questo virus si diffonde molto e si diffonde con tutte le malattie infettive anche con i portatori sani. Cioè io non so chi incontro stamattina e può avere il virus, lo può eliminare. La mascherina è certamente una difesa, purché io pensavo che oggi parlassimo come usare bene la mascherina, non perché usarla o non usarla. È evidente che adesso serve, è necessario, non riesco a capire, non è una cosa tanto complicata da indossare. Beh, però è un pezzo, Siani, mi scusi, il motivo per il quale la interpello su questo è che c'è un pezzo di paese che la pensa su questo fronte, la pensa diversamente, pensa per esempio che la mascherina all'aperto non serva, o pensa molto semplicemente che una legge, le sanzioni e così via non siano lo strumento adeguato. No, su questo io sono d'accordo con lei. All'aperto, se sei soli, non serve la mascherina. Cioè, se uno spiega alle persone il senso della mascherina, è evidente che si capisce che io passeggio da solo lungo il Tevere, sono solo, la posso non indossare la mascherina. Ma se esco da scuola, insieme a tutta la mia classe, 30 persone, devo mettere la mascherina. Questo è evidente. Quindi bisogna spiegare le persone, e io sono sempre contrario alle costrizioni. Un medico non può costringere nessuno malato a fare una terapia, deve convincerlo, devi spiegare che quello che lui sta facendo è nel suo interesse. In questo caso interessa non solo del paziente, ma di tutte le persone. Per cui io sono contrario alle costrizioni in generale, un medico non può costringere, perché neanche un malato oncologico può essere costretto a fare una terapia, ma se gli si spiega che quel farmaco riesce a curarlo e lo può guarire, e ogni malato lo fa senza nessuna costrizione. E quindi è evidente che io sono d'accordo con lei, cioè, se è fuori all'aperto da soli non serve. Evidente, questo è ovvio, è logica. Però ritiene che delle sanzioni per chi non la indossa in situazioni a rischio ci vorrebbero, e anche sanzioni pesanti, come ipotizza il governo. Se non riusciamo a convincere con le buone le persone, però qua mi chiedo perché non riusciamo a convincere. Forse è necessario spiegare di più in televisione, di più per radio, perché è importante, perché è utile, perché serve a tutti. Se si spiega, la percentuale di persone che si oppone sarà certamente più bassa. Io ripeto, ho fatto per 38 anni il medico in ospedale, e quante volte ho avuto persone che erano contrarie a un trattamento terapeutico perché non ne vedevano la necessità, ma spiegando il perché si convincono le persone. Bisogna avere però la capacità, la conoscenza e il modo per poter parlare agli altri, spiegare che questa piccolo fastidio di indossare una mascherina serve in questo momento per tutto il paese, per uscire da una situazione che non è facile, vi assicuro, in ospedale non è semplice in questo momento. Soprattutto in alcune zone, soprattutto dalle sue parti, Siani, perché lei è napoletano, se non vado errato, sì, no? Sì, allora siamo in un momento di crisi perché abbiamo molti contagi, facciamo è vero, molti tamponi. Però il doppio dei tamponi corrisponde al triplo dei positivi, quindi c'è qualcuno che sta circolando il virus, evidentemente. Gli ospedali sono ovviamente adesso sotto pressione, non siamo come ai tempi della Lombardia di marzo, ma stiamo aumentando i ricoveri in terapia intensiva e i ricoveri anche in reparti di degenza, per cui la situazione in questo momento in campagna va controllata in modo preciso. E non basta la mascherina, bisogna usare tre cose: mascherina, distanziamento, lavaggio certo. delle mani. E io voglio aggiungere, lo faccio il 24, scaricare l'app Immuni, sì. per chi ha un telefonino che lo consente, ma sono quasi tutti ormai sì. telefonini moderni, perché quella consente di tracciare perfettamente i pazienti. Sì. Se io sono positivo, lo scrivo nell'app, e senza che nessuno sa chi ha messo questa notizia nell'app, contatti telefonici sono stati vicini a quella malata. Quindi questo isola subito le persone. Perché l'altro strumento è che noi abbiamo adesso molto di più di marzo, è individuare le persone e isolarle. Questo è tracciare. Angelo da Bergamo, buongiorno, prego. Buongiorno, vi ringrazio della chiamata. Io ho 72 anni, io ho paura. Cioè, se c'è una legge, va rispettata. Cioè, bisogna. Possibile che se la sinistra dice no, la destra dice sì? Se la sinistra dice se la destra dice sì, la destra. Ma possibile che non sono d'accordo su una cosa? Siamo veramente in pandemia, in pandemia. Io ho paura, non vado più neanche al bar perché c'è gente troppo ignorante che non capisce. Angelo, sì, la sentiamo, no, la stavo facendo parlare perché è una bella testimonianza, tra l'altro da una città, come ben sappiamo, piagata dalla pandemia e piagata dal virus. Maurizio dalla provincia di Latina, buongiorno. Buongiorno e grazie dell'opportunità. Prego. Guardi, io mi allaccio ai messaggi WhatsApp che lei ha mandato, tra cui sentivo uno, secondo me un po' folle. Si parlava del fatto che se sussisteva ancora l'articolo 32 della Costituzione. L'ho mandato, mi scusi Maurizio, voglio chiarire perché poi qualche ascoltatore critica, ha sentito l'ascoltatore che abbiamo sentito dopo, criticava il fatto che noi dessimo spazio anche a questo mondo, però era per dare anche un po' una testimonianza di alcune discussioni che ci sono all'interno del paese e rappresentarle pubblicamente anche a un deputato della Repubblica. Prego. Ma assolutamente, no, non mettevo in discussione questo, mi perdoni. Io mettevo in discussione un fatto. L'articolo 32 io lo conosco, ma qui non si tratta di un trattamento sanitario obbligatorio. l'uso della mascherina è una misura preventiva, non si sta inoculando niente, se non un po' di buon senso e di responsabilità. Ecco cosa si vuole inoculare, perché se io sono un asintomatico e non lo so finché non faccio un tampone, io sono potenzialmente un untore, un diffusore di virus. La mascherina serve a evitare che io lo possa diffondere. Non ci vuole una scienza, una laurea in medicina, ci vuole buonsenso e civiltà per la miseria, e non dire certe vaccate insultando la Costituzione. Mi scusi anche la voce, prego, non si possono sentire certe cose. È aberrante, è aberrante. La ringrazio Maurizio, grazie. Ci ha raggiunto Matteo Bassetti, buongiorno, bentornato professor Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Allora professore, mi sembra aver capito che su questa cosa delle mascherine all'aperto lei è piuttosto, quantomeno perplesso, Ma guardi, sono perplesso per la semplice ragione che se il provvedimento deve essere per ricordare a tutti che siamo sul ciglio del precipizio, va benissimo, ecco, quindi io, si figuri, sarò il primo a raccomandarlo. Se però mi si dice che c'è un'evidenza scientifica, mettermi la mascherina quando vado a portare il cane a fare la pipì, dico che non ce n'è. Ecco, quindi bisogna vedere in che modo lo vogliamo mettere questo provvedimento. E l'altra cosa è che fare un provvedimento uguale, come scrivono in quei cappellini americani, one size fits all, non va bene. Siamo da nord a sud, ci sono regioni in cui è bene probabilmente stressare ulteriormente l'uso della mascherina, la Campania, probabilmente la Liguria e qualche altra parte italiana. Diverso è la situazione in Val d'Aosta piuttosto che Trentino Alto Adige o la stessa Sardegna. Perché cioè, mettere una misura per tutti uguale, non vorrei che finisse di far scendere l'attenzione sull'importanza di questa misura anziché alzarla. Professor Bassetti, perché lei è convinto che siamo ancora sul ciglio del precipizio, come ci ha detto? No, perché a volte viene annoverato tra gli scettici lei, no? No, io non dico, guardi, io non sono assolutamente tra gli, io sono un realista, io cerco sempre di non buttare le cose troppo avanti. Oggi è evidente che i contagi stanno crescendo, il nostro sistema sanitario non mi pare che sia in una situazione di difficoltà rispetto a quello che succedeva a marzo-aprile, dobbiamo essere attentamente vigilanti sulla situazione, cioè far sì che se ci sono dei focolai devono essere rapidamente spenti e controllati. Quello che sta succedendo per esempio in Campania credo che sia una situazione che deve in qualche modo, ma mi pare che lo stiano facendo molto bene le autorità sanitarie, deve in qualche modo, non dico allarmarci, ma certamente farci rendere conto che le cose non vanno proprio benissimo, ecco. Siani, il professor Bassetti mi sembra che abbia messo il dito in un altro grande problema, che è la regionalizzazione o nazionalizzazione dell'emergenza, che è una questione che ci portiamo dietro dall'inizio, da febbraio, da marzo, con i grandi litigi, i grandi scontri tra le regioni e il governo. E questa è una questione, cioè il fatto che in alcune regioni si possa fare, le misure possano essere più strette, ci possa essere una coercizione maggiore anche nell'utilizzo della mascherina e invece a livello nazionale si possa essere più morbidi. Beh, infatti il Presidente De Luca ha reso obbligatoria la mascherina prima che lo facesse il governo, quando si è reso conto che i contagi in Campania salivano, erano oltre 400 il primo numero in Italia. Quindi questo è evidente che in alcune regioni deve essere più pressante. C'è il tema però che noi non siamo confinati in una regione, noi ci spostiamo da una regione all'altra, quindi diventa anche complicato poi spiegare se tu oltrepassi un certo limite la devi mettere, se no non la puoi ormai non mettere. Quindi io credo che in questo momento una misura di prevenzione, come diceva benissimo un ascoltatore prima, che non è inoculare un farmaco, non è prendere nessuna sostanza, ma è proteggere naso, bocca e mento, perché la mascherina va messa bene e che non dà nessun disturbo di nessun tipo. Elisa Noia l'ha detto in modo strabiliante ieri in aula. Sì, l'abbiamo fatta sentire prima. Ho sentito, credo che sia una cosa in questo momento ragionevole, che spiegare bene alle persone perché serve, e ci vogliono pochi minuti per farglielo capire, supera ogni restrizione. Poi spiegare bene vuol dire, come diceva il professor Bassetti, che se sono solo per strada possono indossarla, se sono solo in macchina possono indossarlo, questo è evidente, ma se sono con altre persone è utile, è molto utile indossarlo. Professor Bassetti, ci dà un'idea, mi scusi intanto, già che l'abbiamo qua, di come vanno le cose al San Martino, che poi la chiamiamo sempre per le questioni generali, le questioni nazionali, ma poi c'è un'operatività dell'ospedale nel quale lavora. Guardi, noi al San Martino abbiamo una situazione, devo dire, tutto sommato, ovviamente, di un lavoro intenso, ma alcune voci che erano circolate anche nei giorni scorsi, che non avevamo posti, noi abbiamo un reparto dove sono io in questo momento di malattie infettive che ha 24 posti letto e che ha ancora 6 posti vuoti e un altro padiglione da aprire se ce ne fosse bisogno con altri 17 posti letto. Quindi la situazione è per chi ha lavorato, e credo che la Liguria lo abbia fatto bene, frizzando. Bassetti, mi scusi, 18 occupati sono tutti Covid? 18 occupati sono tutti Covid, però ecco, questo quello che io mi sto rendendo conto oggi rispetto a marzo-aprile è che fondamentalmente i ricoveri sono più brevi, le persone, grazie anche a come li assistiamo meglio rispetto sicuramente a quello che succedeva a marzo-aprile, oggi vanno a casa prima e stanno meglio complessivamente. Guardi, io le do un dato così molto grezzo, tra febbraio e maggio abbiamo avuto circa il 12% di tasso di letalità ospedaliera, da giugno ad oggi il tasso di letalità è l'1%, quindi è cambiato, nonostante l'età media sia uguale, nonostante la tipologia di ricoveri sia molto simile, quindi vuol dire che oggi siamo più bravi a gestirlo, qualcosa è cambiato e quindi sicuramente questo è un messaggio positivo. Attenzione, stiamo parlando dell'1% di letalità ospedaliera, quindi immagini lei che cosa succede se la dividiamo per tutti i casi che ci sono in qualche modo nella mia area, nell'area genovese. Quindi è evidente che oggi siamo più bravi a gestire, abbiamo casi, quindi il sistema deve essere in grado di dare un posto letto a tutti, di assistere tutti, o non siamo più di fronte a quella malattia devastante sulla quale noi fondamentalmente venivamo colti anche impreparati dal punto di vista sia dei ma anche semplicemente Bassetti, perché la sapete gestire meglio adesso, cioè imparato in questi 6 mesi, avete imparato, no? Ecco, ieri sera io, guardi, ho avuto un piccolo scontro in una trasmissione televisiva sul fatto che qualcuno ha accusato che noi medici, noi sanitari non abbiamo curato tutti. Io, ecco, ributto indietro questo concetto sbagliatissimo. A marzo, aprile, tutti sono stati curati, quelli che hanno avuto bisogno. Diverso discorso come li abbiamo curati. Probabilmente all'inizio anche noi, non conoscendo questa infezione, questa malattia, avremmo commesso degli errori, ovviamente in buona fede. Però che non si dica che non abbiamo lasciato qualcuno indietro, perché in Italia abbiamo curato tutti al meglio. Prova ne è che il mondo intero ci sta riconoscendo, grazie a quello che stiamo scrivendo sulle riviste internazionali, quello che stiamo andando a portare a questi congressi, webinar come si chiamano adesso, il fatto che siamo stati tra i migliori al mondo a gestirlo. Questo lo pretendo per tutti i sanitari, medici, infermieri, operatori sanitari, militi, che hanno fatto un lavoro straordinario ed è giusto che gli venga riconosciuto. Nessuno è stato lasciato indietro. Ecco, questo non mi piacerebbe che nelle memorie poi del futuro si dicesse che in Italia qualcuno è rimasto indietro, che non abbiamo curato tutti. Abbiamo curato tutti. Ecco, questo deve essere detto molto chiaro. Grazie Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Buona giornata e buon lavoro, e grazie a Paolo Siani, deputato del Partito Democratico e medico pediatra. Grazie ad entrambi per essere stati con noi e averci aiutato a fare un punto su tutto questo, sulla questione delle mascherine e non solo su quella. Carmelo Lauricelli regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e in redazione anche Gloria Guerrera, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Francesco Sarafo sono i nostri autori. Noi ci risentiamo domani mattina alle 6.30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.